Mezzogiorno di Simone Spezia. Sono 7 le vittime italiane sulle 13 totali nell'incidente nel bus in Catalogna, 2 i feriti gravi tra i nostri connazionali, avevano tutti tra i 19 e i 25 anni. I ladri gli entrano in casa per l'ottava volta e mentre scappano lui gli spara addosso, uno di loro muore, caccia gli altri due a Villa Literno in provincia di Caserta. Fermata in Turchia una ragazza italiana di 24 anni, l'accusa di aver diffuso materiale in favore del PKK. Oggi ci sono le celebrazioni per il Capodanno curdo e la tensione è altissima. Maxi sequestro in Calabria in un'operazione contro l'Ndrangheta, beni per mezzo miliardo di euro e tra questi il centro commerciale più importante della regione. A Roma tronca di fondo il rapporto sugli affitti. Nel 2015 riscossa solo la metà dei canoni. In centro l'85% è moroso per 4 milioni e mezzo di mancati guadagni. Il fine settimana di calcio si chiude con consueta coda polemica sugli arbitraggi. I verdetti dai motori. In MotoGP Lorenzo domina in Qatar. In Formula 1 la Ferrari c'è. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque gli aggiornamenti in arrivo dalla Catalogna, dove le vittime italiane dell'incidente avvenuto ad un pullman di ritorno da una festa a Valencia sarebbero 7. Facciamo dunque un punto con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, sono 7 le ragazze italiane che hanno perso la vita nello schianto dell'autobus in Catalogna, tra cui 3 toscane, una torinese e una genovese. Nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina sull'identità, anche se i nomi sono stati già divulgati da alcuni organi di stampa. Il ministro degli esteri si è messo in contatto con le famiglie che tra ieri sera e questa mattina hanno cercato di raggiungere il luogo dell'incidente. 4 di loro sono già in Spagna, si attende dunque l'arrivo e l'identificazione da parte di tutte le famiglie. Il bilancio dell'incidente è drammatico, 13 in tutto le vittime, tutte giovanissime, tra i 19 e i 26 anni, tutte facenti parte del programma Erasmus. Oltre le italiane ci sono 2 tedesche, una romena, uno uzbeka, una francese e un'austriaca. Le salme sono ora all'obitorio di Tortosa, 20 chilometri dall'incidente. 34 feriti, tra cui 6 italiane, tra questi 2 sono in gravi condizioni. Una tragedia accaduta, lo ricordiamo, di ritorno dalla festa d'inizio di primavera sull'autobus che da Valencia rientrava a Barcellona all'altezza di Freginals in Catalogna. A bordo del pullman 57 universitari Erasmus, una ventina di nazionalità. Ovviamente procede l'inchiesta per capire le cause. L'autista è ricoverato per una contusione polmonare e verrà presto interrogato. È risultato negativo al test di alcol e droga. Si parla di errore umano, di un probabile colpo di sonno. Il pullman avrebbe sbandato verso destra colpendo un guardrail e poi controsterzando avrebbe invaso l'altra corsia prendendo in pieno un'autovettura. Ha un'esperienza trentennale, per lui si tratterebbe del primo incidente nei 17 anni con questa azienda. A Barcellona intanto è giornata di lutto, un minuto di silenzio è stato osservato all'università appunto della città catalana, ma anche in tantissimi atenei italiani, mentre il Papa si è detto fortemente addolorato parlando di perdita irreparabile. E per ora è tutto. E grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti, altri appena ne avremo ovviamente ve li daremo. Intanto parla al microfono di Maria Piera Ceci, il presidente della conferenza dei rettori, Gaetano Manfredi, dice il programma di mobilità studentesca Erasmus non deve fermarsi per quello che è accaduto. Sentiamo. La comunità degli studenti Erasmus è un patrimonio di tutto il paese, ma di tutta l'Europa, quindi non conta né la nazionalità né la provenienza, è una grandissima tragedia che ha portato via le persone migliori che noi abbiamo. Chiaramente una tragedia che sarebbe potuta avvenire in qualsiasi luogo. È un momento che di grande commozione, di grande cordoglio, il nostro pensiero va alle famiglie, ai ragazzi. È sicuramente un'interruzione di una speranza che però deve vivere e si deve sempre più rafforzare, perché la mobilità in Europa è un grande patrimonio che abbiamo conquistato e che dobbiamo difendere. E anche a causa di quello che è avvenuto in Catalogna, cambiamo decisamente argomento, il Partito Democratico ha deciso di sospendere la direzione che si sarebbe dovuta svolgere oggi, una direzione che si avvicinava carica di tensioni tra la minoranza e il presidente del Consiglio e segretario del partito Renzi. Dunque facciamo un punto di politica di giornata con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno Simone, direzione rinviata allora al 4 aprile a causa proprio del grave lutto che ha colpito le famiglie delle giovani italiane che hanno perso la vita in Spagna. La decisione di sconvocare l'appuntamento politico è stata presa dal presidente PD Orfini con il via libera del premier Renzi. Presidente del Consiglio che ieri aveva comunque messo sul tavolo i temi di cui si sarebbe occupata oggi la direzione a partire dall'appoggio di Verdini alle riforme del governo, punto sul quale la minoranza Dem aveva chiesto a Renzi di fare chiarezza e Renzi ieri ha ricordato un metodo fallibile per non avere in maggioranza Alfano e Verdini e vincere le elezioni, cosa che nel 2013 non è accaduta. Il premier ha quindi rivendicato quanto fatto da Palazzo Chigi, la politica economica e le riforme, tutte cose ha detto di sinistra. Il chiarimento all'interno del PD Simone è comunque solo rinviato, i temi restano tutti, anche quello del referendum sulle trivelle, uno spreco lo ha definito Renzi. Sono bugie, ha replicato Emiliano, presidente della regione e segretario uscente del PD Puglia. Simone. Sì, Vincenzo, c'è l'altro fronte poi, quello del centrodestra, che riguarda più strettamente le amministrative, no? Eh sì, è così, centrodestra diviso proprio sulle amministrative e soprattutto sulla corsa per il Campidoglio. A Roma ha ribadito questa mattina Berlusconi, c'è un errore di valutazione sul candidato Bertolaso, che invece è quello che ha più possibilità per essere riconosciuto come la chiave contro il degrado della città. Nuovo appello anti Bertolaso però dal leader della Lega Salvini e dalla candidata sindaco Giorgia Meloni in questo momento in conferenza stampa proprio qui a Montecitorio. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E dunque dalle candidature per la carica di sindaco di Roma passiamo invece a quello che sta succedendo proprio nella capitale, dove come sapete adesso non c'è un sindaco ma un commissario. Si tratta del prefetto Tronca che oggi ha presentato i risultati dell'indagine sugli affitti. Sentiamo. Un lavoro attento, meticoloso e impegnativo. Il commissario Tronca ha presentato così stamattina la prima mappatura del patrimonio immobiliare del Campidoglio nel centro storico della capitale. Partita dopo l'ultima affittopoli, l'indagine conferma il quadro sconcertante che in parte era già emerso. Nel primo municipio ad essere moroso è ben l'85% degli inquilini e dei commercianti che utilizzano immobili comunali e questo determina mancati guadagni per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Nel 2015, nel complesso, il comune ha chiesto ai suoi affittuari canoni per 50 milioni di euro, spesso anche a valori molto più bassi rispetto a quelli di mercato, ma ne sono stati riscossi soltanto 25 milioni, quindi appena la metà. Su tutto il patrimonio immobiliare del Campidoglio, oltre 28.000 fra abitazioni ed esercizi commerciali, pesa invece una morosità storica di oltre 357 milioni di euro. Il lavoro realizzato servirà ora a sanare tutte le irregolarità, un'opera in parte già iniziata. Ma Tronca ha auspicato anche che la prossima amministrazione continui a seguire il metodo di analisi utilizzato nell'indagine per avere così una visione completa di tutte le posizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo ad Istanbul adesso, dove è stata arrestata una ragazza italiana di 24 anni sospettata di avere rapporti e di fare propaganda con il PKK, che dal governo turco, il Partito Curdo dei Lavoratori, che dal governo turco è considerato un'organizzazione terroristica. Sentiamo. Una nostra connazionale rinchiusa da due giorni in un centro di detenzione per stranieri a Istanbul in attesa di espulsione. Giovanna Lanzavecchia, milanese, 24 anni, è stata fermata sabato sera dalla polizia turca in un internet caffè di Istanbul. È accusata di aver pubblicato sui social network materiali di propaganda a favore del PKK, il movimento militante filo curdo considerato da Ankara un'organizzazione terroristica. La ragazza era arrivata in Turchia da pochi giorni e alloggiava in un albergo di Sultanahmet. Secondo i media turchi, vicini ad ambienti governativi, la giovane è stata presa in custodia dalla polizia durante un'operazione nel quartiere Fatih. È accusata tra l'altro di avere pubblicato foto di combattenti armati del PKK e di campi di addestramento. Le autorità consolari italiane stanno seguendo il caso. Oggi si celebra il Capodanno curdo, che rappresenta la ricorrenza più importante per la comunità. I festeggiamenti sono stati vietati in tutta la Turchia, comprese Istanbul ed Ankara, tranne che Diyarbakir, la principale città curda nel sud-est del paese, dove Giovanna Lanzavecchia intendeva andare, a quanto si intuisce dai post pubblicati su Facebook. Negli ultimi, risalenti al 19 marzo, la giovane donna ha pubblicato le foto dell'attentato avvenuto sabato nel centro di Istanbul ad opera di un militante ISIS che ha provocato 2 morti e 7 feriti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco ci collegheremo col padre di Giovanna Lanzavecchia per farci raccontare un po' com'è la situazione, perché da quel che sappiamo dovrebbe essere rilasciata a breve. Vedremo un po' di capire se abbiamo qualche dettaglio in più su quali saranno i tempi. Ci spostiamo in Calabria, veniamo alla cronaca con questa imponente operazione contro l'Ndrangheta e un sequestro di beni che sfiora il 500 milioni di euro. C'è anche un grande centro commerciale, il Due Mari di Lamezia Terme, tra i beni per un valore di 500 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza a decine di imprenditori ritenuti collusi con la cosca Iannazzo dell'Ndrangheta. Le attività svolte dalle Fiamme Gialle sono state condotte attraverso l'esecuzione di centinaia di accertamenti bancari e grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno permesso di dipanare una matassa di complicati intrecci societari ed arrivare al sequestro di 24 complessi aziendali, un centinaio tra terreni e appartamenti, 27 veicoli e 21 partecipazioni societarie, delineata in particolar modo la figura dell'imprenditore Franco Perri tra i proprietari del centro commerciale Due Mari, ritenuto colluso e al centro di diversi affari sospetti. Suo padre fondò il centro commerciale, poi fu ucciso perché le cosche non volevano che i commercianti si spostassero dal centro di Lamezia Terme. La sua bara fu anche trafugata, ne scaturì una guerra di mafia che fece decine di morti. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Restiamo sulla cronaca e passiamo a quello che è successo a Villa Literno. Siamo in provincia di Caserta, dove un uomo ha sparato dei ladri in fuga e ne ha ucciso uno. È l'ottava volta che vengono a rubare e siamo davvero stanchi. Così la moglie dell'uomo che stanotte ha sparato, uccidendo uno dei ladri che si erano introdotti nella sua abitazione a Villa Literno, provincia di Caserta. Dopo aver compiuto il furto, i malviventi stavano per portare via anche l'auto del padrone di casa, che a quel punto però si è accorto della loro presenza e ha fatto fuoco dal balcone. Perché mi spari, avrebbe gridato all'uomo il ladro ferito, secondo quanto riferito dalla moglie del padrone di casa. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un'altra auto e hanno lasciato il corpo senza vita del complice davanti all'ospedale di Aversa. L'auto della fuga è stata trovata completamente bruciata nelle campagne di Gricignano. I carabinieri di Casal di Principe stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica. L'uomo che ha sparato, un meccanico di mezzi industriali portato in procura davanti ai PM, è stato colto da malore ed è stato portato in ospedale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca finanziaria. Telecom Italia lascia l'amministratore delegato. Terremoto in Telecom Italia, dove l'amministratore delegato Marco Patuano è in uscita. La rottura tra il manager e i nuovi azionisti della compagnia telefonica, i francesi di Vivendi, che proprio nelle ultime settimane si sono portati al 24,9% del capitale, era nell'aria. Ma perché la violenta rottura tra Patuano, uomo di Telecom da 25 anni, e Vivendi? Secondo indiscrezioni, i francesi avrebbero chiesto un ulteriore taglio dei costi nel piano triennale fino al 2018 per circa 1 miliardo di euro, da aggiungersi ai 600 milioni di euro già messi in conto nel progetto elaborato da Patuano. La richiesta dei rappresentanti di Vivendi in pratica imporrebbe una severa cura dimagrante alla compagnia di TLC, oppure la vendita di Team Brasil, operazione alla quale Patuano si è sempre mostrato contrario. Intanto una pioggia di mail sta arrivando al premier Matteo Renzi da parte dei dipendenti di Telecom Italia, che ricordano che Telecom è un'azienda strategica per il paese e chiedono bene una riflessione sul ruolo di Vivendi. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24. Siamo allo sport. Allora, gli argomenti ovviamente sono tantissimi, perché è stato un fine settimana nel quale c'è stato il derby di Torino, la Juventus ha vinto con coda di polemiche arbitrali, perché ci sono stati i motori con quel clamoroso botto di Alonso in Formula 1 e una Ferrari che dimostra di esserci, perché c'è stata la MotoGP con il dominio di Lorenzo e Valentino Rossi che arriva quarto. Però con il nostro Dario Ricci partiamo invece da una cosa che ci fa veramente piacere ed è una notizia che arriva da Portland. Dario. Ma sì, direi che in questo cesto di prelibatissime ciliegie che è stato questo fine settimana sportivo mi viene da coglierne due. Una dolcissima, ed è l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto ai mondiali di atletica leggera indoor, 2,36 metri, ma soprattutto dominio in questo periodo, 5 gare tutte di altissimo livello, altrettante vittorie per il marchigiano, che fa davvero sognare in chiave Rio de Janeiro, perché quello l'obiettivo finale, quelle Olimpiadi che inizieranno il 5 agosto. Di tutt'altro sapore invece la ciliegia che amara, amarognola, che ci ha regalato Valentino Rossi. Valentino Rossi a Losail nel Gran Premio d'esordio della MotoGP, quella Losail dove l'anno scorso aveva colto un'importantissima vittoria. Ebbene, quarto, il che tutto sommato per la classifica mondiale, siamo appena all'inizio, non crea grandissimi problemi, ma il modo in cui è arrivato nella scia del vincitore Lorenzo e poi di Dovizioso e dello stesso Marquez, e non fosse scivolato sarebbe arrivato secondo me dietro anche a Iannone. Beh, ecco, questo fa pensare. Ha sbagliato solo la gomma, preferendo la mescola dura a quella morbida, che invece allo Losail si è dimostrata ieri più redditizia, oppure la sua Yamaha M1 effettivamente ancora non ha quel qualcosa in più per permettere a Valentino di fare una stagione effettivamente competitiva ad alto livello. Ecco, da quel deserto Valentino torna non tanto con quel quarto posto, ma soprattutto con questo dubbio. Staremo a vedere. Staremo a vedere dunque nel corso della stagione. Intanto grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento e per queste riflessioni. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi, quando avremo aggiornamenti ovviamente, torneremo sulla vicenda della Catalogna, sul gravissimo incidente di Pullman nel quale sono morte 7 nostre connazionali, e poi parleremo con Marco Lanzavecchia, il padre di Giovanna, che è stata arrestata a Istanbul sabato sera con l'accusa di aver diffuso materiali di propaganda del PKK. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli sono: 7 le vittime italiane sulle 13 totali nell'incidente nel bus in Catalogna, 2 i feriti gravi tra i nostri connazionali, avevano tutti tra i 19 e i 25 anni. I ladri gli entrano in casa per l'ottava volta e mentre scappano lui gli spara addosso. Uno di loro muore, caccia gli altri due a Villa Literno, in provincia di Caserta. È stata fermata in Turchia una ragazza italiana di 24 anni. L'accusa è aver diffuso materiale in favore del PKK. Oggi le celebrazioni per il Capodanno curdo, tensione altissima. A Roma Tronca ha diffuso il rapporto sugli affitti. Nel 2015 riscossa solo la metà dei canoni, in centro l'85% è moroso, per 4 milioni e mezzo di mancati guadagni. Saluto la signora consolata Bianco, con la quale siamo in collegamento dall'ospedale di Tarragona in Spagna, in Catalogna. Signora Bianco, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. È la mamma di Annalisa Riba che è rimasta ferita nell'incidente. È riuscita a parlare con sua figlia? Come sta innanzitutto? Allora, io sono riuscita, siamo qua in ospedale e sedata, perché ha queste ferite, piccole ferite in viso, ha sta mano contorta e poi ha sta vertebra della cervicale, la numero 6, che è lesionata, fortemente lesionata, e deve avere un intervento. Deve essere operata, quindi come dire, la prognosi è ancora riservata per quanto riguarda sua figlia, per così dire. Senta, ha saputo di sua figlia di quello che è successo? Immagino di no, perché è rimasta... La mia figlia della sua amica non l'ha saputa e non glielo diremo fin dopo l'intervento. Naturalmente. Quando verrà operata, signora? Non lo sappiamo, perché stiamo programmando di portarla in Italia, se possibile, se ce lo permette anche lo stato di mia figlia. Ovviamente, se lo permettono le condizioni mediche, immagino. Immobile. Per il momento è immobile, insomma. I medici che cosa vi hanno detto? Che ci sono dei miglioramenti, però per il momento lei non può assolutamente muoversi, è bloccata e... Com'è la situazione là nell'ospedale, signora? Immagino che, insomma... Guardi, di tutto. La cosa più brutta è l'obitorio. C'è tanta gente disperata. Tanta gente disperata. E voi avete avuto modo di incontrare, immagino, anche i genitori della... Di Serena. Dell'amica di Serena. Sì. Mm. E di Firenze, di Roma. Erano tutte amiche sue. Allora, signora, io la ringrazio e la lascio ovviamente alla cura di sua figlia, e alla quale facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili per questo intervento e per quello che succederà. Saluto adesso Marco Lanzavecchia, che è padre invece di Giovanna Lanzavecchia. La notizia l'avete sentita nei nostri titoli. Giovanna è stata arrestata a Istanbul con l'accusa di aver diffuso materiale in favore del PKK, il partito curdo dei lavoratori, che dal governo di Ankara è considerato un'organizzazione terroristica. Buongiorno Lanzavecchia e benvenuto. Buongiorno a lei, Spezia. Allora, che cosa ha saputo? Allora, le ricostruisco brevemente la cosa. Noi abbiamo avuto sentore che esistevano dei problemi, diciamo così, sabato nel tardo pomeriggio, sabato sera, perché la ragazza ha contattato sua sorella dicendo che non avrebbe più avuto la possibilità di contattare e che l'aveva presa la polizia turca. Dopodiché noi, sua sorella è stata un po' più furba di lei e immediatamente ce ne ha parlato. Noi abbiamo contattato il consolato italiano a Istanbul, dove abbiamo parlato con un numero d'urgenza di una funzionaria estremamente cortese e professionale, e questa è una cosa che ripeterò allo sfinimento, che ci ha richiamato dopo un'oretta e ci ha ragguagliato la situazione. In pratica pare che la ragazza abbia, che comunque ha 22 anni e non è milanese ma della provincia di Como, abbia manifestato la sua opinione a proposito negativa a proposito della repressione riguardo al popolo curdo, eccetera eccetera, ma genericamente, senza parlare di PKK o di altri partiti. No, perché stanno addirittura circolando, le dico Lanzavecchia, le cose che stanno circolando sui media, no? Scusi? Le cose che stanno circolando sui media, sulle agenzie, no? Dicono addirittura che avrebbe pubblicato delle foto di campi di addestramento o cose di questo genere. No, io direi di no, penso che sono uno di quei genitori che è amico su Facebook della figlia e bene o male le cose le vedevo. Magari delle cose che riguardavano i curdi, il fatto che adesso ci sarebbe stato il capodanno curdo, queste cose qui, ma diciamo una cosa, lei è appassionata della causa del popolo curdo genericamente, ma non è che, voglio dire, di PKK piuttosto che altro, cioè lei la vede come una questione umanitaria. Sì. Poi nel caso specifico devo dire che io ritengo, e glielo dirò quando penso e spero che presto la rivedrò, è assolutamente inopportuno prendere delle posizioni di questo tipo in paesi stranieri, dove tu sai fino a un certo punto e dove sai soprattutto fino a un certo punto che cosa è permesso e che cosa non è permesso. In Turchia siamo stati anche insieme e lei sa benissimo che in Turchia, per esempio, il vilipendio allo Stato turco piuttosto che alla persona di Ataturk, eccetera eccetera, sono considerati dei delitti e dei delitti gravi. Quindi io mi stupisco e la perdono solo perché ha 22 anni che lei si sia permessa di fare delle osservazioni di questo tipo. Sì, si prepara una cazziata sostanzialmente, chiedo scusa per la brutalità. Mi giunge da una comune amica la notizia che lei ha 3 figli. Sì. Come provvederebbe in una situazione di questo tipo? Non lo so, mi ci devo trovare. Sento una cosa, da quanto era arrivata in Turchia sua figlia? Ma era arrivata la sera prima. La sera prima. La sera ha intenzione di passare qualche giorno lì, perché comunque già lei conosce Istanbul. Voleva andare a Diyarbakir per il Capodanno, cioè nella zona curda? No, allora, era un'intenzione che aveva manifestato prima, poi ultimamente, soprattutto parlandone, visto la situazione com'era, eccetera, eccetera, aveva detto, avevamo convenuto che secondo noi questo, anche perché anche Diyarbakir avevamo stati assieme per turismo, ma 7-8 anni fa, e per cui ha convenuto che non era tanto opportuna la cosa, e dopo l'attentato che c'era stato la mattina ha avvertito che la situazione anche a Istanbul non era bella, e infatti aveva già acquistato un biglietto aereo per ritornare su Berlino immediatamente, perché diceva no, qua c'è un'aria che si taglia col coltello, la gente è spaventata, sono tutti preoccupati, non potrei certo godermi la vacanza. Senta, quindi noi l'aspettavamo praticamente per per il giorno dopo. Per il giorno dopo. Senta, che cosa vi è stato detto? Entro quando dovrebbe essere rilasciata? Perché mi sembra che allora, a questo guardi, punto sia dico, quasi una formalità, cioè la dovrebbero rilasciare e poi espellere dal paese. Dovrebbero in pratica, espellerla con l'interdizione a rientrare nel paese per 5 anni. Devo dire che questo, nelle attuali condizioni, è anche un segno di atteggiamento fortemente collaborativo da parte delle autorità turche, nel senso che nel contesto attuale della situazione turca e con la specificità delle leggi turche, il fatto che si limitino ad espellerla, secondo me sono molto gentili. Senta, sui tempi vanno detto allora, qualcosa. Allora noi parliamo col consolato, loro hanno detto che secondo loro massimo mercoledì. Massimo Devo dire mercoledì. Che la ragazza non è in carcere, ma in un centro di espulsione e identificazione per stranieri, è in una cella singola ed è trattata bene, per cui cioè, rinnovo. Poi Spezia, le dico un'ultima cosa, sì. Io ho accettato molto volentieri di parlare con lei perché la conosco. Sì. E ho stima di voce, ma no, anche di persona. Lei non lo sa perché io sono un tirapiedi, ma l'ho vista di persona. Sì. Ma nel senso che lavoro spesso per una società del Gruppo del Sole, però ho deciso di parlare solo con lei e di indirizzare tutti i media al consolato. Ripeto, sono professionali, sono gentili, hanno dato informazioni precise, puntuali. Questo è quanto mi sento Benissimo. Di dire, ecco. Ottimo, la ringrazio. Grazie a Marco Lanzavecchia, appunto papà di Giovanna, che è stata arrestata a Istanbul, e la ringrazio per la disponibilità a parlare con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa come sempre, e poi ci ritroveremo per un piccolo scampolo. Come sapete, effetto giorno, il lunedì è un po' più corto, abbiamo dalle 13.45 la nostra rubrica sulla autotrasporto, quindi viene anticipato lievemente America, tra l'altro oggi America 24, tra l'altro oggi importante, si parla di Obama a Cuba, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sono 7 le vittime italiane su 13 nell'incidente nel bus in Catalogna, 2 feriti gravi tra i nostri connazionali, avevano tutti tra i 19 e i 25 anni. È stata fermata in Turchia una ragazza italiana di 24 anni, l'accusa di aver diffuso materiale in favore del PKK, come avete sentito dovrebbe ritornare in Italia mercoledì, entro mercoledì. I ladri gli sono entrati in casa per l'ottava volta e mentre scappavano lui gli ha sparato addosso, uno di loro è morto, caccia gli altri due a Villa Literno in provincia di Caserta. E poi il rapporto sugli affitti, sull'affittopoli romana diffuso da Tronca nel 2015 riscossa solo la metà dei canoni, in centro l'85% è moroso e per 4 milioni e mezzo di mancati guadagni. Alla borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Abbiamo pochi istanti prima di lasciare la linea al nostro Mario Platero con America 24, oggi una puntata particolarmente importante perché si parla della visita storica di Barack Obama a Cuba e dell'incontro che ci sarà oggi con Raul Castro. Giusto il tempo per darvi un ultimo aggiornamento sulla vicenda dell'incidente avvenuto in Catalogna, il pullman, l'incidente del pullman nel quale sono morti 7 ragazze italiane. C'è quello che filtra dalla stampa spagnola in queste ore, nel quale molti media spagnoli riferiscono che gran parte dei passeggeri che avevano messo la cintura di sicurezza sono salvati. Quasi tutti i ragazzi dormivano al momento dello schianto, alle 6 del mattino, secondo l'Avanguardia. Le ragazze che hanno perso la vita sedevano nella parte sinistra del bus, vicino al finestrino, ed è stato questo che ha provocato la loro morte. Noi adesso ci fermiamo, appunto, c'è Mario Platero con America 24, ci sentiamo alla fine per i saluti.